Capitolo 23. 18 febbraio 1822. Stamattina Arthur ha imbrigliato il cavallo che usa per la caccia ed è partito di slancio appresso ai suoi segugi. Resterà fuori tutto il giorno e io potrò dedicarmi al mio povero diario. Sebbene non sono sicura di poter definire diario una scrittura tanto discontinua. Sono trascorsi 4 mesi da quando l'ho aperto l'ultima volta. Mi sono sposata nel frattempo e sono diventata la signora Huntington di Grassdale Manor. Il mio matrimonio dura da 8 settimane. Me ne sono pentita? No, ma devo riconoscere segretamente che Arthur non è affatto come credevo che fosse. Se l'avessi conosciuto così a fondo prima non avrei potuto amarlo, o se me ne fossi accorta durante il fidanzamento avrei deciso che era meglio non sposarlo. Non mi è mancata la possibilità di conoscerlo, a dire il vero. Tutti erano molto ben disposti a parlarmi di lui e lui stesso non ha mai finto di essere diverso da quel che è. Io, però, non volevo vedere e non mi dispiace tuttavia non aver conosciuto il suo carattere prima di legarmi a lui, ma anzi sono contenta di essermi risparmiata a suo tempo un tale doloroso e angosciante conflitto con la mia coscienza. Ad ogni modo, a prescindere da quel che sarebbe stato giusto fare allora, il mio dovere ora è quello di amarlo ed essergli fedele, il che mi trova per natura assolutamente ben disposta. Lui mi adora anche troppo, direi. Preferirei meno smancerie e più senno. Vorrei essere meno una bestiola da coccolare e più un'amica potendo scegliere. Non che me ne voglia lamentare, è solo che temo che il suo sentimento possa essere meno profondo se è al tempo stesso troppo appassionato. Un fuoco di rami secchi, invece che un fuoco di carbone, caldo e acceso, ma che rischia di consumarsi in fretta lasciandosi dietro solo cenere. Ma non succederà, sono certa che saprò tenerlo acceso. Lasciamo da parte questo pensiero per il momento. Arthur, devo ammetterlo, è un egoista. Una rivelazione che tuttavia mi fa soffrire meno di quanto dovrebbe, poiché amandolo io stessa così tanto, riesco a perdonargli il fatto di amarsi. A lui piace essere compiaciuto e a me piace compiacerlo. E se mi lamento di questo aspetto del suo carattere, è sempre per il suo bene piuttosto che per il mio. Me ne sono accorta già durante la luna di miele. Arthur ha voluto accorciarla poiché l'Europa gli era già familiare. Alcune cose non lo interessavano, quindi come un tempo, mentre altre non lo interessavano affatto. Dunque, dopo un rapido giro in Francia e in Italia, sono tornata a casa sapendone poco tanto quanto prima di partire. Con le persone e i costumi avevo avuto poco a che fare e con le cose ancora meno. Avevo le idee piuttosto confuse e i paesaggi mi si affollavano in testa come tanti frammenti variopinti. Alcuni di questi, a onor del vero, mi sono rimasti impressi più di altri, ma il ricordo è avvelenato dall'amarezza di non avere mai condiviso con mio marito quell'emozione. Quando, anzi, gli confidavo quanto fossi contenta di aver visto, di poter presto vedere qualcosa che mi interessava, lui si dispiaceva, perché in quei momenti realizzava che mi piacevano tanto anche altre cose che non avevano niente a che fare con lui. A Parigi siamo stati pochissimo e non mi ha dato modo di ammirare neppure un decimo delle bellezze di Roma. Non vedeva l'ora di riportarmi a casa. Mi voleva tutta per sé e desiderava vedermi insediata nel mio ruolo di signora di Grassdale Manor, così com'ero, sincera, genuina, fresca. Mi riteneva simile a una farfalla delicata e temeva potessi perdere la porpora delle mie ali se fossi stata troppo a contatto con la società parigina, ma soprattutto romana. Non mi risparmiò neppure il fatto che sia nell'una che nell'altra città c'erano alcune signorine che gli sarebbero saltate al collo vedendolo con me. Ero seccata, certo, ma non tanto perché fossi delusa per me stessa, quanto piuttosto di lui e di dovermi inventare scuse con le amiche per giustificare il fatto di aver visto così poco senza biasimare lui direttamente. Ma una volta giunti a casa, la mia bella casa nuova, ero così felice, lui un tale tesoro, che non solo lo perdonai, ma arrivai a pensare di essere sin troppo fortunata e di avere un marito troppo buono per me, se non addirittura per il mondo. Fin quando un giorno, la seconda domenica dopo il nostro arrivo, mi diede un'altra dimostrazione della sua natura. Stavamo Stavamo tornando a piedi verso casa dopo la messa del mattino. La chiesa era vicina, la giornata fredda e limpida, e avevo insistito che non prendessimo la carrozza. Helen, mi disse in tono stranamente solenne, devo dirti che non sono pienamente contento di te. Gli domandai il motivo. Se te lo dico, mi prometti che cercherà di migliorare? Sì, se posso farlo. E se posso farlo senza offendere qualcuno di superiore a me. Ecco, ci risiamo. Lo vedi? Tu non mi ami pienamente. Non capisco, Arturo. Spero almeno di non averti capito. Ti prego di dirmi cosa ho detto o fatto di tanto sbagliato. Non hai detto o fatto niente di sbagliato. È piuttosto per via di come sei, troppo religiosa. A me piacciono le donne religiose. Il tuo senso di pietà è una delle tue migliori virtù, ma come tutte le cose belle. Anche la religione può diventare eccessiva e credo che la fede di una donna non dovrebbe distrarla troppo dalla devozione nei confronti del suo Signore in terra. Che ne abbia a sufficienza per nobilitare lo spirito, ma non tanta da rendere il suo cuore sfuggente e sollevarla oltre i sentimenti umani. Io? Io sarei quindi oltre i sentimenti umani? Non ancora, tesoro, ma sei ben avviata in quella direzione, trovo, più di quanto vorrei. Ho pensato a te per 2 ore consecutive e ho cercato di incrociare il tuo sguardo mentre tu eri talmente presa dalle preghiere che non mi hai degnato di una sola occhiata. Non è giusto arrivare a essere gelosi del Creatore, mi pare. Ti prego, fallo per me, non provocarmi più questi sentimenti sbagliati. Al Creatore io darei tutto il mio cuore e la mia anima se potessi, risposi. E a te non un solo atomo in più di quanto lui consenta. Come puoi pensare, Signore, di metterti al pari di una divinità, di litigarti il mio cuore con colui a cui devo tutto quanto quel che ho e quel che sono, ogni benedizione di cui posso godere, compreso tu, sempre che tu sia una benedizione, cosa di cui comincio a dubitare. Oh, non essere tanto severa con me, Helen, e non stringermi il braccio così forte, mi stai conficcando le dita fino all'osso. Arthur, disse allora lasciando la presa. Tu mi ami molto meno di quanto ti amo io, ma se io sapessi che mi ami di meno perché ami di più il tuo creatore, non avrei di che lamentarmi e sarei anzi felice di vederti talvolta così preso dalle tue preghiere da non curarti di me. Inoltre non avrei nulla da perdere, giacché più grande è il tuo amore per Dio, più profondo quello che provi per me. A quel punto rise e mi baciò la mano, dandomi della dolcissima fanatica. Poi si levò il cappello e mi disse: Helen, guarda cosa può fare del resto un uomo con una testa così. A me pareva una testa normale, ma appoggiandoci la mano sprofondai in una montagna di riccioli, in particolar modo al centro. Lo vedi? Non sono fatto per essere un devoto, rise. Se il Signore mi avesse voluto devoto, mi avrebbe dotato di un organo adatto alla venerazione. Sei come il servo, risposi, che non usa l'unico talento per servire il suo signore, ma glielo restituisce dicendogli che lo sapeva uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Chi ha ricevuto meno può dare meno, ma tutti devono fare il massimo che è in loro potere. Di certo non sei incapace di devozione, fede, speranza e senno. Hai tutte le caratteristiche di un buon cristiano, se le vuoi coltivare. Le nostre virtù crescono con l'uso, le nostre qualità, le buone come le cattive, si fortificano esercitandole. Se decidi di usare le cattive, alla fine ti comanderanno loro, e le buone si indeboliranno e sarai solo tu da biasimare. Eppure hai tante doti, Arthur, nel cuore e nello spirito, e una natura che in tanti vorrebbero vantare. Basterebbe che decidessi di metterti tutto al servizio del Signore. Non dico che dovresti trasformarti in un bigotto, chiaro, ma si può essere bravi cristiani pur senza rinunciare ad allegria e divertimento. Sembri un oracolo, Helen, e quanto dici è indiscutibilmente vero, ma stai a sentire qua, io ho fame, davanti a me è apparecchiato un ricco pasto, mi dicono che se vi rinuncio oggi, domani avrò ogni genere di leccornie. Allora, innanzitutto avrei qualche dubbio ad accettare di aspettare l'indomani, dato che ho già a disposizione quel che mi serve per soddisfare la mia fame. In secondo luogo, quel che ho davanti mi piace molto di più di quel che mi hai promesso. Terzo, questo banchetto dell'indomani non lo posso vedere. E come faccio quindi a essere sicuro che non sia una favola? Quarto, questa tavola che ho davanti sarà stata preparata per qualcuno, no? E chi può mangiare e godere, come dice Salomone? Se non ti dispiace, quindi io mi accomodo a soddisfare la mia fame e domani accada quel che accada. Chi dice che alla fine io non possa avere l'una e l'altra cosa? Ma nessuno ti chiede di rinunciare al ricco pasto di oggi, ma solo che tu ne approfitti con misura, in modo da poter ancora godere del banchetto migliore che verrà l'indomani. Se decidi di non ascoltare questo consiglio e mangiando e bevendo senza ritegno come un animale, scegli di trasformare in veleno il buon cibo che ti viene servito. Con chi ritieni di dovertela prendere poi quando soffrirai le conseguenze della tua ingordigia? E vedrai altri uomini più moderati seduti a godere di un magnifico banchetto da cui tu sei escluso. Oh, siamo d'accordo, mia santa signora. Eppure Salomone dice anche: non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersela nelle sue fatiche. Ebbene, gli risposi, Salomone dice anche: sta lieto, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù, segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Giusto, Helen, ma a me pare di essere stato virtuoso in queste settimane. Vuoi da farmi qualche rimostranza? Cosa vorresti che facessi? Ah, per il momento ti comporti bene, Arthur, ma vorrei che fossero i tuoi pensieri a essere diversi, che tu fossi più forte contro le tentazioni, che non chiamassi male il bene e bene il male, che i tuoi pensieri fossero più profondi e il tuo sguardo più alto. Capitolo 24. 25 marzo. Arthur è stufo. Non di me, voglio sperare, ma della vita tranquilla che sta conducendo. E non mi meraviglio, poiché in effetti non ha modo di svagarsi. Legge solo giornali e riviste sportive, e appena mi vede con un libro in mano non mi dà tregua finché non lo richiudo. Durante le giornate più serene riesce a passare il tempo, ma in quelle più piovose, come ce ne sono state tante ultimamente, è una pena assistere a quanto si annoia. Io mi sforzo di intrattenerlo come posso, ma non è facile che si interessi a quello di cui mi piace parlare, e al tempo stesso a lui piace parlare di cose che a me non interessano e che anzi mi irritano. La cosa che preferisce in assoluto è star seduto o sdraiato accanto a me sul divano e raccontarmi dei suoi amori passati, che finiscono immancabilmente con la rovina di qualche povera sventurata o di un marito ingenuo, e se manifesto il mio disappunto, ecco che mi accusa di essere gelosa e si piega in due dalle risate. Inizialmente mi arrabbiavo, oppure scoppiavo a piangere, ma dato che non faceva che divertirsi ancora di più, ho iniziato a contenere certe reazioni e ascoltare i suoi racconti silenziosamente e con pacato sdegno. Lui però è in grado di leggere il disagio che provo nel mio sguardo e confonde la pena che mi procura il saperlo tanto indegno con le ferite della gelosia. Quando sente di essersi divertito a sufficienza, oppure teme che il mio cattivo umore possa guastare il suo, allora mi bacia e cerca in ogni modo di farmi tornare il sorriso. Eppure, mai come in quei momenti, mi sono odiose le sue carezze. Mi sembra un egoismo doppio nei miei confronti e nei confronti delle poverine che ha amato in passato. A volte, in certi attimi di sofferenza e penosa confusione, mi capita di domandarmi: che cosa hai fatto, Helen? Salvo poi tacitare quella voce interiore e respingere quei pensieri che mi assalgono e mi affollano. Se anche egli fosse 10 volte più libertino e resistente ai più nobili principi, non avrei alcun diritto di lamentarmi. Non mi lamento, dunque, né lo farò. Lo amo e continuerò ad amarlo. Non mi pento e non mi pentirò di essermi legata a lui per la vita. 4 aprile. Abbiamo litigato, questa volta seriamente. Nello specifico, Arthur mi aveva riferito in più occasioni della sua relazione con Lady F, storia alla quale inizialmente non avevo neppure creduto. Poi, con un certo sollievo, avevo scoperto che, date le circostanze, la signora in questione era da ritenersi più colpevole di quanto non fosse lui. Arthur all'epoca era molto giovane ed era stata lei a farsi avanti. Detestavo quella donna perché la ritenevo colpevole di aver messo Arthur sulla cattiva strada. Così, quando giorni fa me la menzionò, gli chiesi il favore di non parlarmi di lei perché non sopportavo neppure di sentire il suo nome. E non certo perché l'hai amata, sia chiaro, ma solo perché ti ha ferito e ha tradito il marito. Quindi per me è una persona indegna e anche tu dovresti vergognarti a parlare di lei. Lui però Prese le sue difese, dicendo che il marito non era che un vecchio rimbecillito, che nessuno mai avrebbe potuto amare. E perché l'ha sposato allora? Ah, per interesse, rispose. Una pessima condotta, e il voto di amarlo e rispettarlo è un comportamento altrettanto disonorevole che non ha fatto che peggiorare le cose. Sei troppo dura con la poverina, disse ridendo, ma non devi preoccuparti, Helen, non mi importa più niente di lei adesso, e non ho mai amato nessun'altra neppure la metà di quanto amo te. Non aver paura che io possa lasciarti come ho fatto con loro. Se mi avessi confessato tutte queste cose prima, io non ti avrei dato neppure una possibilità, Arthur. Dici sul serio, tesoro? Assolutamente. Rise, incredulo. Come vorrei poterti convincere che quanto ti dico è vero, gridai allontanandomi bruscamente. Per la prima, e spero anche l'ultima volta in vita mia, desiderai di non averlo mai sposato. Helen, mi disse lui più serio, se dovessi crederti davvero, sai bene che dovrei anche arrabbiarmi molto, ma per fortuna non ti credo. Sebbene io veda come sei pallida e che sguardo furioso hai in questo momento, conosco il tuo cuore più a fondo di quanto forse tu stessa lo conosca. Non dissi nulla e andai a chiudermi in camera. Passata una mezz'ora venni a bussare, dopo aver provato a girare la maniglia. Non vuoi farmi entrare, Helen? Chiese allora. No, sono molto arrabbiata e non voglio rivederti né sentire la tua voce fino a domani mattina. Sentii che rimase un istante confuso, indeciso sul da farsi. Poi se ne andò. Avevamo finito di cenare da un'ora e sapevo quanto si sarebbe annoiato a passare la serata da solo, un pensiero che stemperava la mia rabbia senza tuttavia persuadermi a cedere. Volevo dimostrargli che il mio cuore non era in suo potere e che se volevo potevo vivere anche senza di lui. Mi misi a scrivere una lunga lettera a mia zia, senza ovviamente dirle nulla della nostra discussione. Lo sentii avvicinarsi di nuovo pochi minuti dopo le 10, ma raggiunse direttamente la sua stanza e vi si chiuse senza fermarsi davanti alla mia porta. Ero molto curiosa di vedere come si sarebbe comportato con me il mattino dopo. Restai alquanto delusa vedendolo arrivare a colazione con un bel sorriso. Ce l'hai ancora con me, Helen? Mi chiese avvicinandosi come per abbracciarmi. Io per tutta risposta voltai lo sguardo altrove e mi versai il caffè commentando che si era già fatto tardi. Lui fece un breve fischio e andò alla finestra. Guardò per qualche momento il paesaggio, carico di nubi, pioggia, campi bagnati e alberi zuppi. Lanciò qualche maledizione al tempo e poi tornò a tavola e sedette a fare colazione. Prendendo il caffè, commentò che era maledettamente freddo. L'hai lasciato raffreddare troppo, dissi io. Lui non mi rispose e finimmo il pasto senza un'altra parola. Accogliemmo con sollievo l'arrivo della posta. C'erano un giornale, un paio di lettere per lui e un paio per me, che Arthur mi tirò attraverso il tavolo senza dire nulla. Una era da parte di mio fratello e l'altra da parte di Millicent Hargrave, che al momento si trovava a Londra con sua madre. Invece le sue dovevano essere lettere d'affari e, a giudicare da come le mise via, neppure tanto gradite. Si lasciò scappare una qualche imprecazione che, se fossimo stati in un altro momento, non avrei mancato di rimproverargli. Aprì il giornale e finse di esserne rapito per molto tempo ancora dopo la colazione. Trascorsi il resto della mattina tra la lettura della mia corrispondenza, le risposte da scrivere e l'organizzazione dei lavori di casa. Nel pomeriggio mi misi a disegnare e tra la cena e l'ora di andare a dormire lessi. Arthur invece era smarrito. Non aveva nulla da fare per intrattenersi, per quanto volesse invece mostrarsi altrettanto occupato e indifferente. Con un tempo diverso avrebbe chiesto sicuramente che gli preparassero il cavallo e se ne sarebbe andato chissà dove dopo colazione per tornare la sera. Magari se avesse trovato nelle vicinanze una signora qualunque di un'età compresa tra i 15 e i 45 anni, avrebbe cercato vendetta ingaggiando un folle corteggiamento di qualche tipo. Per fortuna, però, non poteva fare né l'una né l'altra cosa, e vederlo penare in quel modo era una tortura. Dopo essersi annoiato tra le pagine del giornale e dopo aver abbozzato qualche riga di risposta alle sue lettere, passò la mattinata a vagare da una stanza all'altra, guardando fuori dalla finestra e lamentandosi del tempo, accarezzando i cani o maltrattandoli a seconda del momento. Ogni tanto veniva a sdraiarsi sul divano con un libro in mano che non cominciava mai. E quando pensava di non essere visto, mi scrutava in volto in cerca di una lacrima o di qualche altro segno di pentimento. Dal canto mio però riuscii a mantenermi in uno stato d'animo di solenne tranquillità per tutto il giorno. Non che fossi ancora arrabbiata, anzi, mi dava pena vederlo così, e anche io avrei voluto riappacificarmi, però desideravo che fosse lui per primo a mostrare qualche segno di pentimento e di umiltà, altrimenti, facendo io la prima mossa, non avrei fatto che rinforzare la sua presunzione, incoraggiando la sua arroganza. In quel modo non sarei certo riuscita a dargli la lezione che volevo. Dopo cena si trattenne a lungo in sala da pranzo e mandò giù una forte quantità di vino. Temo, sebbene non abbastanza da indurlo a rivolgermi la parola. Quando entrò in soggiorno e mi trovò intenta a leggere, talmente presa dalla mia occupazione da non alzare neppure lo sguardo, si limitò a borbottare qualche commento di disapprovazione. Sbatté la porta e andò a sdraiarsi sul divano. Il suo cocker favorito, Dash, che fino ad allora era rimasto accucciato ai miei piedi, lo raggiunse e gli saltò sopra per leccargli la faccia, ma lui lo mandò via con uno schiaffo. Il povero cane guaì e tornò da me con la coda tra le gambe. Dopo una mezz'ora Arthur si svegliò e lo chiamò, ma Dash, intimidito, si limitò a muovere la coda. Lo chiamò allora con più forza e quello mi si avvicinò ancora di più, leccandomi la mano, come chiedendomi di difenderlo. Il padrone, furioso, prese un libro e glielo tirò in testa. La povera bestiola guaì e scappò dalla stanza. Aspettai che se ne fosse andato e poi raccolsi il libro. Dammelo, disse Arthur senza usarmi troppa cortesia. Obbedì? Perché l'hai lasciato uscire? Lo sai che mi piaceva averlo qui. Con che maniere, però, gli dissi io, tirandogli un libro? O forse era me che volevi colpire? No, per quanto invece noto che hai avuto anche tu la tua parte, commentò vedendo l'escoriazione che avevo sulla mano, che era stata in effetti colpita. Io ricominciai a leggere, anche lui cercò di fare lo stesso. Fatta una serie di grossi sbadigli, annunciò che il suo libro era una vera porcheria e lo tirò sul tavolo. Passarono alcuni minuti, in cui credo sia rimasto a fissarmi, e poi la sua pazienza non resse più e mi chiese: «Che cosa stai leggendo, Helen?» Glielo dissi. «Ed è interessante?» «Molto.» «Ma...» Continuai a leggere, o a far finta, dato che gli occhi e il cervello andavano ognuno per conto suo. I primi seguivano le pagine, mentre l'altro si chiedeva incessantemente quando Arthur mi avrebbe di nuovo rivolto la parola, cosa avrebbe detto e cosa avrei dovuto rispondergli. Lui però non disse niente, finché non andai a preparare il tè, quando mi comunicò che non l'avrebbe preso. Restò sul divano, a momenti con gli occhi chiusi, a momenti guardando me o l'orologio, fino a che si fece l'ora di andare a dormire. A quel punto mi alzai, presi una candela e feci per andarmene. «Helen!» mi chiamò forte mentre stavo uscendo, al che mi voltai in attesa che mi dicesse cosa voleva. «Cosa c'è, Arthur?» gli risposi infine. «Niente», disse lui allora. «Vai pure». Così feci, ma lo sentii dire qualcosa mentre richiudevo la porta, qualcosa di molto simile a «maledetta donnaccia», e sperai di aver capito male. «Hai detto qualcosa?» chiesi. «No, no», disse lui. Richiusi la porta e mi ritirai. Lo rividi solo la mattina dopo, quando si presentò a colazione con un'ora di ritardo rispetto al solito. Lo accolsi dicendo: «Sei sceso tardi. Potevi fare a meno di aspettarmi», fu la sua risposta. Andò di nuovo alla finestra. Il tempo era tale quale a quello del giorno precedente. «Maledetta pioggia!» esclamò. Subito dopo, però, fu preso da un'idea e annunciò raggiante: «Però so cosa fare!» Così dicendo, si accomodò a tavola. Avevano già portato la posta, lui la esaminò senza dirmi niente. «Non c'è niente per me?» chiesi. «No!» Poi aprì il giornale e iniziò a leggerlo. «Bevi il caffè», gli suggerì, «altrimenti si raffredda un'altra volta». «Se è finito, puoi anche andare», rispose lui. «Non sei gradita qui». Me ne andai nell'altra stanza, chiedendomi se ci aspettasse un'altra giornata triste come la precedente, augurandomi che queste torture reciproche finissero al più presto. Lo sentii dare disposizione ai domestici come se stesse preparandosi a un lungo viaggio. Fece chiamare il cocchiere, lo sentii parlare di carrozza, di Londra e qualcosa a proposito dell'indomani mattina, e il tutto mi angosciò non poco. «Bisogna che lo dissuada dall'andare a Londra», mi dissi. «Finirebbe per combinare qualche guaio, sarebbe solo colpa mia. Come fargli cambiare idea? Intanto aspetto di vedere se me ne parla». Lasciai quindi passare qualche ora, ma non disse nulla né su questo né su altri argomenti. Lo sentii fischiettare, vezzeggiare i cani e vagabondare da una stanza all'altra come aveva fatto il giorno prima. Stavo giusto pensando di prendere io l'argomento quando John involontariamente venne a riferirgli un messaggio del cocchiere. Chiedo scusa, signore, Richard mi manda a dirvi che uno dei cavalli è raffreddato e che se per voi fosse possibile partire dopodomani anziché domani farebbe in tempo a guarire. Che faccia tosta! Gridò. Vi prego, signore, insiste che se fosse possibile per voi posticipare sarebbe molto meglio, continuò John, anche perché il tempo potrebbe migliorare e con un cavallo raffreddato non. Dannato cavallo! Replicò. Ebbene, digli che valuterò la cosa, aggiunse infine ripensandoci. Mi guardò, aspettandosi forse di trovare un segnale di allarme o di stupore nel mio viso, mentre io, trovandomi preparata, riuscii a mostrarmi indifferente. Davanti al mio sguardo fermo, notai dalla sua espressione che doveva essere deluso. Si avvicinò al caminetto, dimesso, appoggiandovi il braccio e su questo la fronte. Dove volevi andare, Arthur? A Londra, mi disse serio. E perché? Gli chiesi. Perché qui non sono felice. Per quale motivo? Perché mia moglie non mi ama. Ti ama e come se solo tu ne fossi degno. E cosa devo fare per esserne degno? La presi come una prova di grande umiltà e ne fui tanto colpita con una tale gioia e una tale pena che fui costretta a restare in silenzio qualche istante prima di riuscire a rispondergli. Quando lei ti offre il suo cuore, dovresti prenderlo con gratitudine e averne cura, non ridurlo a brandelli e ridere di lei quando non riesce a strappartelo di mano. A quel punto si girò voltando le spalle al fuoco. Sarai buona allora, Helen? Quella sì che mi parve un'affermazione presuntuosa e non mi piacque affatto il sorriso con cui la pronunciò. Non sapevo bene cosa rispondere. Temetti di essermi rivelata troppo, che avesse sentito il tremito nella mia voce o che mi avesse notato asciugarmi una lacrima. Mi perdoni? Aggiunse in tono più modesto. Ti sei pentito? Gli chiesi avvicinandomi a lui con un sorriso. Mi hai spezzato il cuore, rispose con aria affranta, eppure con una nuova luce negli occhi e accennando a sua volta un sorriso. Questa volta non lo trovai irritante e lo abbracciai. Lui fece lo stesso e, nonostante la quantità di lacrime versate, non credo di essermi mai sentita più felice in tutta la mia vita. Non partirai allora? Gli domandai quando le lacrime e i baci furono finiti. No, amore mio, se tu non vieni con me. Ci verrò con piacere se ritieni che cambiare aria possa farti bene e se accetti di rimandare il viaggio di una settimana. Accettò subito, aggiungendo però che non sarebbe stato necessario fare troppi preparativi, dato che non ci saremmo fermati tanto. Voleva evitare che diventassi troppo londinese, frequentando le signore di città e perdessi quella mia rustica vivacità. A me suonava assurdo, ma non volevo contraddirlo in un momento simile. Gli risposi che, come ben sapeva, amavo stare in casa e che la vita di società non mi attirava granché. E quindi, lunedì, dopodomani, partiamo per Londra. Abbiamo messo fine al nostro litigio da 4 giorni e trovo che abbia giovato a entrambi. Stimo Arthur molto più di prima e noto che anche lui ha un comportamento diverso con me. Non ha più accennato alle DF per provocarmi, né ad altri episodi del suo passato. Se potessi, li vorrei dimenticare o almeno riuscire a fare in modo che lui li veda come li vedo io. Tuttavia, mi ritengo già abbastanza soddisfatta per avergli fatto capire che non sono faccende di cui si può ridere con la propria moglie. Magari un giorno riuscirà a vedere oltre. Non voglio porre limiti alle mie speranze e, malgrado i miei timori e i moniti della zia, sono ancora sicura che possiamo essere felici.